giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il caso della bambina di 10 anni che è arrivata a scuola con il capo coperto dal niqab che lascia scoperti solo gli occhi sta sollevando molte riflessioni, innanzitutto sulle norme che regolano il tipo di vestiario adatto ad un ambiente scolastico, ma anche sul rispetto dei simboli religiosi a scuola. Riunione in prefettura a Gorizia per programmare il disinnesco delle due bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale rinvenute sotto i binari della stazione transalpina in Slovenia, a poche centinaia di metri dalla piazza che unisce le due città. Il gruppo MSC scoprirà le carte sulla reindustrializzazione del sito produttivo di Varzil al tavolo del Ministero, al quale partecipano anche Fedriga e Rosolen questo pomeriggio. In questa fase non ci saranno i sindacati. Intanto per gli 86 esuberi di Electrolux a Porcia ha rinviato il tavolo tra sindacati e azienda al 20 marzo. I ragazzi udinesi derubati sabato sera da un gruppo di coetanei nei pressi della Galleria Bardelli sono solo l'ultimo episodio di microcriminalità giovanile riscontrata a Udine negli ultimi mesi e i sindacati delle forze dell'ordine chiedono rinforzi. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con la maggior percentuale di impresa al femminile, sono il 22,4% del totale. Ciò significa che abbiamo quasi 22.000 imprenditrici, ma la maggior parte sono imprenditrici di se stesse con imprese individuali. In Valsaisera la vecchia polveriera dell'esercito è stata trasformata in un resort di lusso con tanto di garitte. Buongiorno da Lara Zani e Nada Cioc. In apertura il caso della bambina di 10 anni che è arrivata in una scuola pordenonese con il niqab, il velo che lascia scoperti soltanto gli occhi. Benché si sia concluso perché la bimba su sollecitazione dell'insegnante l'ha tolto, ha riaperto il dibattito sugli abiti e i copricapi da indossare a scuola. Diverse anche le letture sull'interpretazione delle norme vigenti. Sentiamo. L'insegnante ha certamente agito in buona fede, ma è opportuno che riconsideri la sua decisione l'invito che la direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame rivolge alla maestra di una scuola elementare del Pordenonese che, vistasi arrivare un'alunna di famiglia musulmana con indosso il niqab, il vestito islamico integrale, ha chiesto e ottenuto dai genitori di farla venire in classe a volto scoperto. Beltrame fa sapere di non aver ancora ricevuto alcuna segnalazione ufficiale sul caso, ma precisa che non essendoci al momento una norma specifica che vieti il velo integrale tra i banchi, le scuole devono favorire l'inclusione nel rispetto delle differenze anche di abbigliamento. Diverso il suo personale punto di vista sulla questione. Per la dirigente, a scuola i bambini non devono sentirsi discriminati e il rispetto dell'identità religiosa e culturale, a suo parere, potrebbe non venire esteriorizzato. Per il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Luca Gervasutti, il dirigente scolastico e l'insegnante della scuola pordenonese si sono appellati al buon senso prima ancora che alla legge. La questione però è controversa, osserva Gervasutti, ricordando che se nel nostro paese non esiste alcun divieto di indossare vestiti o simboli religiosi a scuola, tuttavia dal 1977 la cosiddetta legge reale vieta l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico senza giustificato motivo ed è il caso in discussione. Obbligare una bambina di 10 anni ad andare a scuola con l'intero volto coperto tranne gli occhi contravviene alle più basilari regole del vivere comune, dei diritti fondamentali dei bambini e dell'identità femminile, dichiara intanto in una nota il senatore e segretario regionale della Lega Marco Dreosto, che annuncia un'iniziativa in Parlamento per vietare il niqab a scuola e nei luoghi pubblici sull'esempio della Francia e del Belgio. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. È da poco iniziata la riunione in prefettura a Gorizia, anche con le autorità slovene, per definire la data nella quale si procederà al disinnesco delle bombe rinvenute a fine febbraio sotto i binari della transalpina Nova Gorizia, durante i carotaggi previsti per il cantiere di riqualificazione della stazione ferroviaria slovena. I due ordigni da 250 kg risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati rinvenuti dagli artificieri sloveni che li hanno prontamente ricoperti con il materiale di riporto e li sorvegliano H24. Inizialmente la data prevista per il disinnesco era il 10 marzo, ma visto il rinvenimento di due ordigni e il timore che ce ne possano essere ancora altri inesplosi nell'area del cantiere, ora si sta valutando un'altra data per le operazioni di disinnesco, che coinvolgeranno 2.300 persone che dovranno essere evacuate. Sull'accordo di programma per il futuro del sito produttivo di Varsila, oggi al Ministero per le Imprese è stata convocata una riunione alla quale prenderanno parte il Presidente della Regione Fedriga e l'Assessora Rosolena, i vertici di MSC, il nuovo attore nella vertenza. Il Presidente del gruppo armatoriale MSC a Ponte alcune settimane fa aveva annunciato di essere interessato a rilevare il sito produttivo di Bagnoli della Rosandra e 300 operai. Le istituzioni e i sindacati avevano quindi chiesto delle garanzie che andassero oltre a quanto si poteva leggere dalla stampa e oggi al tavolo ministeriale dovrebbe delinearsi in modo più chiaro l'intenzione del gruppo armatoriale, che ha già fatto investimenti ingenti nella logistica e nel porto di Trieste e ora pare intenzionato a costruire vagoni merci nel sito dell'ex Grandi Motori. La riunione avverrà comunque a porte chiuse e non prevede in questa fase la presenza dei sindacati. Con l'entrata in gioco di MSC nella vertenza Varsila bisognerà comprendere anche quale ruolo potrà essere riservato ad Ansaldo, che fino all'entrata in scena del gruppo armatoriale era l'unica azienda interessata al sito triestino per sviluppare elettrolizzatori, un progetto industriale che fino a un mese fa non era ancora definito da un business plan preciso. Slitta il 20 marzo l'incontro programmato per oggi tra le organizzazioni sindacali ed Electrolux Italia, durante il quale saranno discussi gli 86 esuberi negli stabilimenti friulani. Il rinvio è stato originato dalla convocazione per il 12 marzo al Ministero delle Imprese del Made in Italy del tavolo nazionale dedicato esclusivamente alla situazione della multinazionale svedese. I rappresentanti dei lavoratori hanno così preferito chiedere di posticipare il faccia a faccia con l'azienda a quando il quadro sarà più chiaro. Per quanto riguarda gli esuberi, è prevista un'azione di incentivo all'esodo volontario. Il gruppo di 7 ragazzini derubati da un altro gruppo di coetanei sabato sera a Udine, vicino alla Galleria Bardelli, non è l'unico episodio violento in cui sono stati coinvolti dei minori a Udine nelle ultime settimane. I sindacati delle forze dell'ordine lamentano la scarsità di organico. Da giovedì a domenica a Udine una rissa con ferita d'arma da taglio a San Domenico, dove alta la sensazione di insicurezza tra i residenti. Uno studente aggredito e picchiato da 3 compagni in classe fuori da scuola al centro studi. La sottrazione con la forza di un giubbotto in via della Faula. 2 furti al Città Fiera, subito risolti, ma dove è segnalato un incremento di tentativi negli ultimi mesi ed è stato rinforzato il presidio di sicurezza interno. Una rapina infine da parte di 15 ragazzi a un gruppetto più piccolo di altri amici, in Galleria Bardelli, in pieno centro. Qui un esercente della galleria, che preferisce non farsi inquadrare, ci racconta che la situazione negli ultimi 6 mesi è andata a peggiorare notevolmente. Non c'è giorno che non succeda qualcosa con le baby gang, che sono multirazziali. Vengono, prendono di mira, magari studiano il giorno prima il piano e più tardi nella giornata vengono a fare razzia. Accad, ex guardia giurata che lavora in galleria da un anno, crede che i controlli di polizia che fanno nella zona della stazione facciano sì che questi ragazzi tendano poi a venire verso il centro. Becchi uno a rubare, si sfoga, ma il giorno dopo è di nuovo qui e sono minorenni e non si può fare nulla. Nei locali notturni, ci dice uno che ci lavora, non si vedono più le forze dell'ordine in borghese come una volta. Chi gestisce quindi i primi 20 minuti in caso di rissa a più persone, sempre più frequenti? Sindacati di polizia e carabinieri criticano la mancanza di personale che si riflette sul controllo del territorio. Un reparto che fa 2-3 pattuglie si riflette poi solamente in un aumento della visibilità, magari ad alto impatto, ma senza quel lungo e continuo lavoro sulla stessa strada per più giorni. Non ci sono più mezzi e tempi per farlo e quindi il personale viene impiegato più per sicurezza percepita che reale. Rispetto a 5 anni fa, indica Donato Carrozza del sindacato di polizia SIULP, perso il 30% delle volanti sul territorio. Domani mattina in prefettura a Udine una riunione periodica del Comitato Ordine e Sicurezza. All'ordine del giorno anche gli episodi di microcriminalità sul trasporto pubblico locale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. 2 donne sono rimaste ferite in maniera non grave in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 14 in località San Giovanni di Duino. 2 le vetture coinvolte che si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e del distaccamento di Opicina, che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, e ai carabinieri della pattuglia di Opicina. Le 2 donne ferite sono state condotte all'ospedale di Catinara. Sono quasi 22.000 le imprese femminili in regione, il 22,4% del totale, la più alta percentuale in Italia. Tuttavia, la loro dimensione rimane quasi sempre a livello di impresa individuale. Sono 21.932 le imprese femminili registrate a fine dello scorso anno in Friuli Venezia Giulia, sostanzialmente stabili, con una lieve flessione, meno 0,3% rispetto all'anno precedente. In regione resta più alta la quota di imprese femminili sul totale, 22,4%, contro una media italiana del 22,2%. Come ogni anno, in vista dell'8 marzo, festa della donna, il Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone Udine presenta un report aggiornato sui dati statistici dell'economia femminile. Guardando ai singoli territori, i dati evidenziano che il calo sia generalizzato in tutte le province, tranne in quella di Trieste, dove invece si registra un saldo positivo dello 0,9%. La maggior parte delle imprese femminili in regioni di tipo individuale seguono le società di capitale e quelle di persone. I settori che registrano maggiori spazi sono quelli dell'attività di servizi, commercio, alloggi e ristorazione e il settore primario. In Friuli Venezia Giulia le imprese femminili registrate sono maggiormente guidate da under 35 e da persone di cittadinanza straniera, cinese e rumena in prevalenza. Il tasso di occupazione per gli uomini e per le donne è superiore a quello medio italiano. Nel 2022 quello maschile era del 75%, 5,8 punti superiore a quello italiano. Quello femminile del 61,9%, più 10,8. Anche il tasso di disoccupazione sia per gli uomini che per le donne è inferiore nel 4,3% degli uomini e del 6,6% delle donne rispetto alla media nazionale. Nel settore del commercio, alberghi e ristoranti, il 53,2% degli occupati è donna, nelle altre attività di servizio il 55,7%. Le donne sono invece meno presenti nei settori dell'industria, nel primario e nelle costruzioni. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono 20 le aziende della metalmeccanica friulana che dal 6 all'8 marzo partecipano insieme a MECSPE di Bologna, primario appuntamento fieristico internazionale dedicato alle innovazioni dell'industria manifatturiera, giunto alla 22esima edizione, al quale sono attesi oltre 60.000 visitatori. A coordinare e organizzare lo spazio espositivo collettivo di 250 metri quadrati suddiviso in tre aree è Comet, il cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia. Inoltre alla fiera, attraverso il cluster, arriveranno anche 60 studenti provenienti dai principali istituti tecnici regionali. Per loro è in programma una visita alla scoperta delle nuove professioni che l'industria 4.0 sta portando nelle aziende. Autostrade Alto Adriatico informa che nella giornata di venerdì 8 marzo è stato proclamato uno sciopero generale nazionale da parte di sigle sindacali autonome di 24 ore. La società ha garantito che verranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale e quindi la continuità del servizio di centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d'urgenza. La nostra regione, avamposto di difesa durante la guerra fredda, è piena di ex caserme e infrastrutture militari dismesse, che il demanio spesso fatica ad alienare. Eppure a volte questi siti riescono ad attrarre i capitali di imprenditori. Così è accaduto alla polveriera in Valsaisera, trasformata in un resort di lusso. Sentiamo. Un hotel di lusso al posto della vecchia polveriera. No, non è fantascienza, ma una realtà da pochi mesi operativa in Valsaisera, comune di Malborghetto, a due passi da Tarvisio. Dismesso nell'89, il deposito di armi degli Alpini della Giulia venne acquistato all'asta nel 2014 da una società di costruzione di Udine. Oggi i 10 ettari, che erano ridotti ad un cumulo di macerie, sono diventati un'area con 7 chalet e 30 posti letto, strutture di alta qualità con una particolarità. La recinzione, le garritte, le vecchie tabelle che indicavano la vigilanza armata sono ancora lì, visibili a tutti dopo un'attenta ristrutturazione. Non c'era nessun obbligo, nessuno ce l'ha imposto, ma stiamo cercando di mantenere il passato e costruire qualcosa che possa dialogare anche con un passato, e anche se siamo nell'ambito di una caserma, di una polveriera, vogliamo provare a far dialogare il turismo con la storia di questo posto. Tra i primi ospiti anche coloro che prestarono il servizio militare proprio nella polveriera. La reazione comune è quella che hanno piacere a trovare ancora delle vecchie zone della polveriera intatte, per il fatto che quest'area sia stata recuperata e non sia più una zona degradata. Una manna per l'area del Tarvisiano, viste le poche strutture ricettive di alta qualità presenti sul territorio. Il comune non ha esercitato la prelazione a comprare dal demanio questa struttura, perché è convinto che doveva finire in mani appassionate, volenterose, capaci, e alla fine si è creata una struttura che darà lustro alla Val Canale e al Friuli Venezia Giulia. Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo, il cielo è coperto su tutta la regione con le temperature registrate poco fa: Trieste 13 gradi, Gorizia 14, Pordenone 13, Udine 12 gradi e mezzo, Tolmezzo e Tarvisio 8 gradi, Sappada 4 gradi e mezzo, Forni di Sopra 3, Piancavallo 1 grado, sull'Ussari 3 gradi, sullo Zoncolan 1 grado, a Grado e Lignano 12 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio generale miglioramento dello stato del cielo con assenza di precipitazioni, temperature massime pomeridiane sopra la media del periodo. Domani al mattino cielo in genere poco nuvoloso, in seguito aumento progressivo della nuvolosità fino a cielo nuvoloso in serata. Dal pomeriggio sulla zona montana e sull'alta pianura possibili rovesci sparsi, anche temporaleschi. Quota neve in serata fino a 1300-1500 metri circa. Mangia le bottiglie in PET e in cambio dispensa punti per ottenere in regalo borracce. È il nuovo dispositivo attivo da questa mattina a Pordenone, vicino all'Auditorium Concordia, installato dall'AGEA con l'amministrazione comunale. Pordenone virtuosa nella raccolta differenziata, lo sarà di più grazie al mangiaplastica, lo speciale eco compattatore per la raccolta di bottiglie in PET che è stato posizionato vicino al parcheggio dell'Auditorium Concordia a Pordenone. Voluto dall'amministrazione comunale e gestito da AGEA, la multiservizi del capoluogo del Friuli Occidentale, è un macchinario capace di riconoscere in modo selettivo le bottiglie di plastica, ridurne il volume e favorirne il riciclo. I cittadini, dopo il conferimento, ottengono dei punti e alla fine, a quota 500 punti, vengono premiati con una borraccia. Il riconoscimento più importante, però, è quello della tutela ambientale. Per utilizzare il mangiaplastica bisogna registrarsi al servizio e attivare l'app ogni volta che si depositano le bottiglie. Funziona tutti i giorni, 24 ore su 24. L'eco compattatore può essere utilizzato anche per la raccolta di farmaci, pile e rifiuti RAE. Gianfranco Marino, presidente di AGEA, si augura che questa iniziativa possa portare a risultati concreti nel potenziamento della raccolta differenziata. L'impegno della multiservizi, quello di promuovere soluzioni sostenibili e migliorare la qualità dell'ambiente del territorio. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le vaschette per alimenti, bottiglie in PET, pellicole per alimenti, ma anche i rivestimenti delle pentole antiaderenti da alcuni medici non sono considerati sicuri per la nostra salute. Sentiamo a proposito il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, Lucio Bomben. Per quanto riguarda l'uso del materiale plastico nei contenitori da mettere nel microonde, la risposta è assolutamente no. La temperatura nel microonde in cui scaldiamo i cibi nella plastica provoca purtroppo la formazione di microplastiche che vanno nel cibo. Le bottiglie d'acqua che noi usiamo, ne consumiamo una quantità industriale, ognuno di noi utilizza 200 litri di acqua in bottiglia all'anno, puoi immaginare che quantità di plastica produciamo. Però all'interno di quelle bottiglie ci sono le microplastiche. E non solo, se noi continuiamo a utilizzare la stessa bottiglia e la riempiamo di acqua, più volte la riempiamo, più si formano le microplastiche. Ci sono certe pellicole che non possono avvolgere i cibi grassi come i formaggi, ma queste precisazioni sono scritte nella etichettatura. Quindi molta attenzione a quello che c'è scritto nelle etichette. Le padelle antiaderenti sono sicure? Sono sicure se sono integre. È importante che non vengano create abrasioni sulla padella. Anche questo perché provoca, da una parte, il disfacimento dell'antiaderente in quanto tale e quindi l'immissione nel cibo di sostanze PFAS, PFOA e tutti i derivati, anche quelli più tossici e quelli che rientrano nella somma dei PFAS più tossici. Però, tra l'altro, si è visto che se noi provochiamo delle abrasioni e utilizziamo pentole con Teflon, tanto per far nomi e cognomi, con questo tipo di antiaderente, si formano anche microplastiche. I biberon, vi prego, usate quelli di vetro, non usate quelli di plastica, anche se costano di più, usate quelli di vetro. Come per conservare gli alimenti è più indicato il vetro. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo ancora del silos. Il silos non è agibile, la proprietà, la Coop Alleanza 3.0 lo ha denunciato già ad agosto, ma oggi lo ha ribadito in una conferenza stampa che si è appena conclusa. Sentiamo. I proprietari del silos, la Coop Alleanza 3.0, ha denunciato ad agosto che la struttura non è agibile. Si tratta di una struttura fatiscente e pericolosa, infatti, dove però vivono 300 giovani stranieri richiedenti asilo. Con questa denuncia, se qualcuno dovesse farsi male, la responsabilità sarebbe distribuita anche alle istituzioni, dice la Coop, che da tempo è pronta a vendere. L'acquirente c'è, uno sviluppatore immobiliare, per ora top secret, ma la pratica è ferma per lungaggini burocratiche, denuncia Coop, che nel frattempo ha fatto una donazione a ICS, Ufficio per i Rifugiati. Domenico Costa, consigliere nazionale Coop Alleanza 3.0. Piccolo finanziamento all'ICS, 2.000 euro, che è in linea con la politica di Coop Alleanza, che a Trieste l'anno scorso ha devoluto 130.000 euro alle associazioni operanti nel territorio di Trieste e della sua provincia, che vuole cercare di aiutare non soltanto i migranti attualmente bivaccati al silos, ma vuole sostenere anche quella rete di assistenza diffusa che ICS ha organizzato a Trieste in questi anni, e che permetterà quindi di poter fare la spesa con un po' meno fatica e con meno angoscia. Trieste, la città che da 21 anni accoglie in modo diffuso le persone migranti, un modello di riferimento internazionale per chi non vuole creare zone ghetto, è anche la città dove 300 giovani vivono in condizioni disumane. Gianfranco Schiavone, presidente ICS. Sono oltre 1.000 persone che vivono nelle case, delle stesse case che abitano i triestini, appunto secondo il modello della assoluta normalità della vita quotidiana, quindi sono gli invisibili, così come è spesso invisibile ciò che funziona. Però attenzione, la violenza diffusa non risolve il problema del silos interamente, perché il problema è dato essenzialmente dalla mancanza di un piano funzionante di trasferimenti e di redistribuzione in tutta Italia. Siamo un punto d'ingresso, non può essere il punto di arrivo per tutti. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.52 chiude il nostro GR, che è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Bruno Montevecchi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.